Latte su una parte comune che è il torrino. Torrino, quello che io volgarmente chiamo gabbiotto, si chiama torrino. E così, poi vabbè, avevo sentito qualche commento magari del proprietario del tuo piano che diceva ma non c'è servitù di passaggio del cavo, invece c'è la servitù, e come per l'antenna TV, capirai, è nell'angolino proprio, tra il pavimento e il muro divisore dei due terrazzi, capirai qual è, vabbè, ognuno deve dire la sua. Però per adesso tutto a posto, insomma, non ci sono stati più quegli episodi sporadici di TVI proprio di fronte a me c'era una signora che lamentava qualche anno fa un po' di TVI, gli avevano appena reinstallato l'antenna, però vedevo che questa antenna TV non era puntata verso Monte Euro, ma era puntata esattamente dal tecnico sulla mia antenna del baracchino. Ho detto, signora, ma scusi, che installazione l'hanno fatto? Se Monte Euro è lì più a destra, perché l'avete puntata sulla... Insomma, l'ha richiamato, credo che l'abbia anche un po' ulteriore munta di altri soldi per girare l'antenna. Poi non ho più saputo niente, non c'erano più problemi, però all'epoca, detto tra noi anche, avevo dei baracchini tipo l'Omega Magnum, il Magnum Omega Force, che erano una terrificante, era una scarica di spurie armoniche terrificante, quindi potrebbe aver, anzi sicuramente ha contribuito, infatti quei baracchini vanno usati solo in macchina, in casa meglio non usarli se sei in città, perché sono terrificanti. Esatto, problema nella casa dove abitavo prima, avevo un Albrecht ed era tremendo, addirittura due persone, uno all'ultimo piano e l'altro al piano terra, mi sentivano nelle casse dello stereo di casa loro, capito? Uno nelle casse del computer e l'altro nello stereo. Ho cambiato la radio, avevo preso il CRT 2009, scomparso tutto, capito? Dipende proprio dall'emissione delle spurie di certe radio. Con l'Albrecht, sì, io ho avuto il predecessore del tuo, io ho avuto il 5800 che era identico in forma, cambiava forse qualche tasto con doppia funzione, ma siamo lì. Però poi quell'Albrecht, allora in macchina era rumorosissimo, almeno il 5008, che poi lo trovi anche col nome Magnum 257, identico, il clone, uguale. Allora in macchina era terrificante, io quando arrivavo tipo zona di discesione di ottava, insomma come vedevo lì, come incontravo lampioni comunque sulla 131, sentivi questo QRM che saliva, man mano che ti avvicinavi al lampione sentivi questa friggitrice, si sì, proprio arrivava anche a 9, ho detto ma non è a filtri questo apparato, mettevi la NL e non cambiava nulla, sì, ti silenziava un po' l'audio, te lo diminuiva, il disturbo aveva di fatto scena. Vabbè, come emissione era un apparato normale, sì, c'aveva un po' più spinta radio perché c'era anche una piccola modifica che era da fare d'obbligo, ma di girare giusto un trimmer. Però poi ho avuto un problemino di potenza, era in garanzia, l'avevo mandato al venditore, forse te l'avevo raccontato, a chi me l'ha venduto. Sarei tenuto 8 mesi senza fare niente, anziché spedirlo alla Midland per suo nome o tramite mio nome, non lo so. Ha detto che l'ha spedito alla Midland, sarei tenuto 8 mesi senza fare niente, io ogni mese chiedevo, ma è l'apparato che fine ha fatto? E lo è, ma sa, la Midland, sono molto lenti, i tempi sono lunghi. Allora poi alla fine io ho contattato la Midland tramite email a chiedere se a nome di quella ditta, se a nome mio, se a nome del titolare stesso della ditta era stato spedito tale apparato, eccetera. E hanno detto che noi, dice, non è mai transitato dalla Midland CTE, quello che è, insomma. E praticamente l'apparato è ritornato dopo che è stato sbugiardato il venditore con lo stesso difetto, cioè non l'ha nemmeno aperto apparentemente a quanto ho visto. se ti dico il difetto era una fesseria, una super fesseria, allora ti spiego, l'apparato accendevi e dava quei 10 watt, poi crollava rapidamente a un watt e mezzo, due, e di più non dava. Tu dici, cosa sarà, il finale, il prefinale, qualcosa che pilota comunque qualcosa in zona finale? No, era il trimmer della potenza, che ovviamente era regolabile, che si era mezzo bruciato, mezzo interrotto, e come scaldava appena, come si passava tensione, quello che è, non conduceva più come doveva, e la potenza crollava. E quell'apparato l'avevo regalato a, che sarebbe uguale come pezzi di ricambio, a Roberto di Alghero, che è anche radiatore, no, da un po'. Insomma, l'ha aperto e ha scoperto la magagna, in 5 minuti ha scoperto la magagna che quel rivenditore non ha voluto risolvere in 8 mesi. Una fesseria, ha cambiato il trim, l'apparato è tornato come nuovo, a parte che era nuovo, neanche un graffio, era proprio tenuto in modo maniacale, eccetera. Io gli ho dato anche perché non mi piaceva più, non mi piaceva la ricezione, troppo rumorosa, eccetera, ma anche la timbrica di ricezione era un po' pungente, non so come dire. Oh Carlo, riprendi. Sì, mi ricordo, forse mi avevi raccontato questa, sì, a volte trovi qualcuno che si prende l'incarico e poi non si fa niente, se lo lascia mesi, alla fine tu insisti e capito, e scopri le magagne che magari non l'ha mai toccato, capito? E vabbè, purtroppo così. Poi in seguito io, se riuscirò a fermarmi un'antenna sul tetto, magari mi prenderò a quel punto anche una radio nuova, qualcosa di anche di serio, capito? Adesso che sono qua, perché ho la possibilità di avere anche una postazione sempre piccolina, contenuta, però con lo spazio necessario per alloggiare anche una radio più seria, capito? E adesso dovrò valutare, comunque dai, dovremo risentirci adesso di tanto in tanto. Io qualche sera sto entrando e fare quattro chiacchiere con Gianni, è entrato qualche volta, sì, Claudio, ci siamo sentiti anche al telefono, con Claudio mi ha richiamato e a dirmi, insomma, che mi ha fatto piacere di sentire, insomma. E certo, io ho avuto qualche piccolo problema, poi già ci sentiremo eventualmente di persona, visto che abitiamo vicino, magari qualche volta a settimana prendiamo qualcosa al bar, insieme, un caffè o quello che vuoi. Mi fa anche piacere, Marco, a te il microfono. Ciappa, sì, stavo pensando alla cosa del coso per l'antenna, più o meno in base al piano dove ti trovi, quanti metri teorici potrebbero servirti di cavo per arrivare a un'antenna tipo a centro del tetto, contando anche la lunghezza del palo eventuale, grosso modo, ma tipo 20 metri, 30, 40? Ah no, penso una quindicina massimo, non di più, 15 metri, io ho un campo che è lungo 30 metri addirittura, ma non lo tocco finché non sono sicuro, capito? Lo accorcerò se metterò l'antenna qua e poi devo vedere dove passarlo, capito? Poi non so se potrò usare quello che ho io, che è nero, grosso, oppure se dovrò optare per un cavo più sottile, magari è bianco se possibile, per magari se lo devo passare in facciata o da qualche altra parte, devo vedere tutto ancora, Marco, e quindi, però i metri sono quelli, una quindicina di metri da centro tetto. Caspita, eccellente, pensa, io vabbè, piano rialzato, più tre piani, più il tetto, deve andare al centro del tetto, fare una specie di L, poi arrivare al gabbiotto, poi la lunghezza del palo, insomma 50 metri ce li ho, però vedi, questo cavo ce ne sono, diciamo, 5 metri in eccedenza, cioè io posso portare il baracchino anche in camera mia volendo, basta srotolare il cavo, che ho fatto, diciamo, non una matassa stretta, una matassa però molto, ma molto larga, in modo da non fare l'effetto bobina, molto molto larga, dietro il divano. Ho ok, è buono, no, perché te lo dico perché casomai sullo stesso palo valuta per usi futuri se tu volessi mettere anche un antennino, un piccolo antennino bipanda per ascoltare i radioattori. Basta uno scannerino da pochi euro, anche un Baobà, no, il Baobà non lo consiglio perché viene saturato, cioè proprio l'antenna esterna gli butta giù molti segnali, prende colpi da tutto ciò che è in aria, radio FM, cellulari, eccetera, eccetera. Però se è un ricevitorino tipo questi Uniden, ci sono, guarda, sia a Palmari, sia a tavolo, con antenna bibanda senti i radioattori in VU, e poi volendo, se uno proprio vuole usare la banda PMR con un Baobà, o c'è già l'antenna che risuona comunque, dai, ecco. Poi puoi mettere anche roba micro, per esempio io qua nel terrazzino, sempre per ricevere, però risuonante anche in PMR, c'ho un mini antennino Nagoya, che sta sui 25 cm, bianco, tozzo, che è come un dito, largo come un dito, 25 cm, bianco, e c'ha tre radialini alla base. Praticamente è un'antenna bipanda VU, gli ho messo due radiali per risuonare in UHF meglio, per accordare meglio il PMR, un radiale in VHF per riuscire a coprire un tantino meglio anche la ricezione su quella banda lì. Uno si mette uno zicuricchio del genere su una staffettina laterale e in città, dall'altezza dove ti troverai, dove ti trovi, riesci comunque a parlare dentro Sassari, capito? Anche col Baobà, come lo chiamiamo. Eh sì, ho capito, ti è arrivato questo segnalone forte, forse era in FM però. No, mamma mia, è talmente largo di banda che sembra di splatter, in AM non si capisce quasi, l'FM tanto meno. Esatto, sta splatterando, forse nei canali adiacenti. Ehi, chissà da dov'è e con chi ce l'ha. Hai capito, ci sono alternative anche ad antenne X30, così. Poi guarda, io avevo provato da provare, qua ce n'è, se tu volessi anche mettere cose provvisorie, la Sirio CX440, che è una G-Pol corta, sarà un 59 massimo, che risuona prettamente banda 440 e dintorni. Non è bibanda, però alla fine a ascoltare la VHF l'ascolti lo stesso. Quella è molto discreta, piccola, c'è una specie di baridotto alla base più largo 8 cm, no? Metà dell'antenna è fatta da questo barilotto e poi l'altra metà o poco più da questo stilo non sottile, sempre largo quanto un mignolo. Guarda, se la cerchi su internet, Sirio CX440, a me era andata bene nonostante fosse messa in basso. Qualcuno l'ha provata, però o era difettato l'esemplare, non gli funzionava, non sentiva nulla. Ho avvistato un condor. Non mi dire se è l'ubrofetta. Affermativo, ciao Marco. Dobbiamo accendere un cielo in chiesa, miracolo, ciao Gianni. Ma mi chiedevo che fine avessi fatto, eccetera, se avessi ancora gli apparati, la stazione, magari si è rotto le scatole, è venuto tutto, anche perché attività poca ne sto facendo e poca ne sento. Ciao Gianni, guarda che c'è Carlo nel nuovo QTH con antennino veicolare, vai Carlo per l'ubrofetta. Ciao Gianni, sempre un piacere risentirti, sì Marco, con Gianni ci siamo sentiti qualche giorno fa, è entrato dopo tanto tempo, ci eravamo già sentiti settimana scorsa. Buonasera Gianni, a te il mic. Ciao Carlo, buonasera anche a te, dai, io ho finito di bermi il caffè, ho sentito Marco, quindi non so chi c'è in compagnia, a parte te e Marco, sì vabbè, come l'ho spiegato a te l'altra sera, era da un po' che c'era la l'antenna messa male, smontata qua a casa, cioè, avevo piazzato una frusta della LEM veicolare, però poi si è spezzata. E ho detto, ah, vediamo se c'ho la pazienza di sistemare della boomerang, e niente, dai. L'ho rimontata e l'ho collegata alla, ricollegata all'apparecchio, dai. E niente, funziona tutto discretamente bene con i miei 7 watt di potenza. Benissimo, benissimo Gianni. Come mi senti oggi? Sempre la radio un po' camuffata dalla troppa potenza, oppure così va meglio? Vabbè, quando attacchi te la comprime leggermente, la voce non è limpida come quando sei pulito, dai. Però già sei comprensibile. Diventa appena nasale. Ho capito. Adesso cambio, adesso sono pulito solo con 4, e così dovrebbe essere più limpida la radio. Qua sì. Confermo, sì, leggermente. Te la comprimi leggermente, te la fa un po' più nasina, dai. Va bene, dai, comunque già riesco a fare un po' dappertutto in città. Importante è risentirsi, poi pian piano, Camillus ha contattuato, dicevano i venti. Eia, c'è un profeta rientrato in radio, un miracolo. Ma ascolto, ne stai facendo un po'. Ho visto poi ogni tanto metti, come si chiamano quei post, quegli stati. Ho visto una bella attrezzatura, piatti, console, ma è tutta tua? Affermativo, sì, è tutta roba mia. Sì, ogni tanto la faccio girare, come faccio girare la radio. Ascolta Marco, come mi ascolti? Allora, fondo scala con una Smitter LCD e radio molto amplificata. Guarda, c'ho il palmare ZG col cursore a metà, poi vabbè, il gain della radio è a manetta, come al solito non c'è nient'altro. Figa, cioè, buono, però vuol dire che allora la ZG, sai, non aumenta troppo quello da palmo, soprattutto messo a metà, però adesso sicuramente allora fa la radio. Cos'era quello che ti aveva dato, come si chiama, non il Saturn, perdonami, ricordami il nome, quell'altro. No, è la radio che mi hai dato tu, questa, che è ancora in prestito, il Jupix. Ah, quella stai usando. No, io mi ricordavo che avevi preso anche un'altra radio, ma con Eugenio non aveva fatto una vendita o un cambio, no? Sì, l'Uranus. Praticamente mi si è fulminata la lampadina dello Smith, l'ho smontato senza toccare null'altro, sono andato a riaccenderlo e mi è apparso il display impazzito. Adesso l'ho mollato lì aperto, quando c'è un attimino di pazienza provo a rimetterlo insieme, dai. Ah, peccato, vabbè, un po' seccante, però niente che non si possa risolvere. Va bene, vediamo se entra qualcun altro, così poi stacco. Potrò fare sempre qua in casa, ormai è diventato un lavoro. Vai Carlo, riprendi. Ascolta, il presidente Bill ha detto, aspetta che me lo guarda su internet. Io presidente lo stesso mi sono trovato bene, perché sembrano tarati abbastanza bene, migliorabile ovviamente come ho fatto. Carini, questo c'ha IBFM SB, è di tipo compatto altoparlante frontale, presidente McKinley. Tante opzioni, tanti canali, tante menate che non uso mai, perché qua c'è solo 5 tasti frontali, 5 tastini, che ognuno mi pare 3 o 4 funzioni, ti devi ricordare ogni volta la prassi per far funzionare i tasti. Ti faccio un esempio, premi brevemente fa una cosa, premi a lungo ne fa un'altra, se premi dopo aver premuto il tasto funziona ne fa un'altra ancora, se poi premi tipo assieme al tasto funzione contemporaneamente ne fa un'altra, e ogni volta, siccome sono tanti, li faccio girare, mi dimentico completamente le funzioni di questo frontalino. Vai Carlo. Esatto, ma succede quello, Marco, succede perché non è che stai tutti i giorni a cambiare, solitamente poi usi sempre la stessa funzione e quando poi ti servono le altre non te ne ricordi. Quello capita a me, anche a me, non è un problema. Comunque sì, questa è una radio di quelle sì, lo sto vedendo adesso, sì, è di quei microveicolari. Allora, di questa nuova generazione di microveicolari, perché ci sono anche marcati, vabbè, di altre marche, adesso non mi viene, che hanno quella staffa innovativa che ti permette non di dover sempre svitare quei cavoli pomelli, c'ha quelle alette, le premi e lo sfili, e la staffa la puoi lasciare, è un po' come un autoradio, lo puoi sfilare in qualsiasi istante senza stare a svitare pomelli, a perderteli, a, capito, perché tanto li togli, li metti, li togli, te li perdi. È una figata quel tipo di staffettina lì. Ne volevo prendere uno tempo fa che ha quell'attacco, mi pare sia marcato Midland, poi vabbè, ho lasciato perdere, cosa aggiungi apparati su apparati? A me era il CRT Millennium, CRT Millennium, stessa staffa, frontalino diverso, più basso, più largo, ma la, diciamo sostanzialmente l'apparato, un po' siamo lì come filosofia di apparato. Il tuo mi pare che intelligentemente però gli hanno messo l'attacco classico con i poli a vite, mentre nel Millennium gli hanno messo quel cacchio di attacco RG45 che prima o poi o ti ballano i contatti, cioè o ti si rompe la lamella di bloccaggio, quindi ti si sfila, poi bisogna crimparlo di nuovo da capo, una rottura di scatto. Invece il tuo fortunatamente ha quella roba lì, l'attacco mi pare sia 6 o 7 pin, ecco, e poi la ghiera a vite. Vai Gianni. Vabbè, voi state parlando di arabo, io non sono aggiornato come voi sotto questo aspetto. Oh, yeah. Sì, vabbè, appena c'è un po' di pazienza, che ultimamente scarseggia, cerco di richiudere l'Uranus. Va bene, per il resto sempre la stessa roba, come ho detto prima, e niente, adesso speriamo che l'antenna regga, perché c'è sempre quel radialino in punta che è fatto di pasta frolla. Appena raggiunge una certa inclinazione, proprio si piega, bisogna scenderla e cercare di riaddrizzare il tutto, poi riaddrizza una volta, due, tre, diventa sempre più morbido, e niente, e questo è quanto. La giornata è abbastanza uggiosa, adesso non so se dalla vostra parte sta piovendo, forse c'è un attimino di tregua, e niente. Per quanto riguarda la situazione meteo, che ore sono, io faccio un altro paio di passaggi e poi vi devo lasciare, perché devo sbrigare delle cose qua in the house. Eia, anche io farò così. Comunque, se ci dovesse troncare del tutto l'antenna, ricordati che qua la Venom, come me l'avevi data, imbustata lo stesso giorno, è sull'armadio a prendere polvere. Anzi, nemmeno a prendere polvere, è chiusa nella busta. La busta prende polvere. Quindi, se ci dovesse rompere, la Venom è inutilizzata. Te la porti, te la piace, basta che entriate in radio, ecco. Vai Carlo. Sì Gianni, tranquillo, anche io lo stesso, faccio un paio di passaggi e devo fare una grande cosa. Ieri notte avevo un po' di freddo a letto perché c'è un trabucchino leggero. Mi sa che è arrivato il momento di mettermi quella più pesante, capito? Così ne approfitto, cambio lenzuola e tutto quanto. E mi do un po' alla pulizia, ovviamente rimango in ascolto, lascio acceso e magari più tardi se entra qualcuno mi ritroverete qua a fare quattro chiacchiere. A te Gianni. Eia, sì, anche io già da qualche giorno ho piacevolmente rimesso un piumino non troppo pesante che fa il suo sporco lavoro. Devo dire che preferisco coprirmi piuttosto che non avere altre alternative come qualche mese fa, che veramente per dormire dovevi aspettare 5 del mattino. Dio grazie che è arrivato l'autunno, dai, perché veramente l'estate io la soffro in particolar modo, anche perché poi non hai alternative, la devi subire e basta. Vedete, adesso piumino, lenzuolino, tattico e quindi siamo a posto. Dopodiché se la temperatura si abbassa prenderemo i provvedimenti e già abbiamo l'attrezzatura necessaria. Sì, sì, è altrettanto ti dico, sì, il mio è proprio leggero leggero, è quello che ho adesso. E quindi ci vado anche io, non uno con di quelli pesantissimi, capito? C'ho anche quello, il piumone classico, quello proprio invernale, ma quello lo metti proprio quando si abbassano la notte a 5 gradi, le temperature 4 e così via. Per adesso niente, farò questo cambiarticolo cambiamento in camera da letto per stare più caldo la notte, capito? Marco, tu come sei attrezzato? Guarda, anch'io soffro il caldo in estate, forse per i Gianni, perché la mia è una cosa ormonale, dovuta a tutta questa condizione mia, quindi vengono proprio le caldane, no? In inverno però, cioè in questi giorni mi sono accorto che avevo freddo di notte, avevo proprio freddo, anch'io avevo una trapuntina leggera e mi sono aggiunto una copertina leggera ma in pile, quella da veramente calduccio. Praticamente un po' siamo passati in un breve periodo che stavo in boxer a casa, adesso sono con i pantaloni lunghi e la camicia in pile, facciamo freddo, un po' questi eccessi, no? Da un estremo all'altro. Sì, sì, esatto, io stamattina quando sono uscito erano le 5.25 e c'erano 19 gradi, capito? Sembrava primavera in Australia. Poi è iniziata a piovere a metà mattinata, è scesa un pochettino, però freddo freddo non ce n'è, c'è un po' di umidità di notte e si abbassa, magari stanotte si abbassa di più perché ha piovuto tutta la mattina. Adesso vedo delle aperture nel cielo, no, non mi sembra che abbia intenzione di piovere, capito? Va bene, io ascolto il vostro passaggio finale, vi saluto Marco e Gianni, ci sentiamo alle prossime, è un grande piacere avervi di nuovo risentiti e alle prossime, a voi la radio, a te Marco. Ok, e anch'io inizio a fare qualcosina qua. Ok, ciao Carlo, ben risentito dopo tanto, sempre più forte, se prima rispondavi la radio, adesso peggio che mai. Se attacchi qualcosa di grosso mi va in fumo l'antenna sicuramente. Ok, quindi sentiamo quando capiterà, perché io non sono assiduo, proprio per niente. Gianni, idem con patate, speriamo di che possa risolvere questa storia della lampadina, a meno che non sia di quelle lampadine integrate proprio nello schermino LCD, non so come sia dentro quella radio, però credo che bene o male si possa mettere rimedio. Ok, buona proseguimento di serata a tutti e ci sentiamo alla prossima. 7351, vai Gianni. Sì, dai, anche io stacco, dai. No, la lampadina era di quelle micro lampadine che ho comprato la fusale, l'ho trovata, l'ho sostituita proprio al volo, non ho toccato nient'altro, mi sono limitato solo esclusivamente, evidentemente quando ho riposto le manopole c'era praticamente quella del commutatore delle frequenze, che ho fatto appena appena un po' più di forza del dovuto, e sospetto che forse ho messo un po' più di forza del dovuto e quella magari ha creato qualche... Comunque, appena c'ho un po' di pazienza, cerco di rimetterla a posto. Va bene, dai. Salutoni circolari a tutta la ruota. Si sente all'improvviso come oggi. D'accordo? Dai. Buona serata e ci sentiamo più avanti. Luca, idem, ti sento tutto quanto a bomba qua, fai tremare male, no? Stiamo stando. Non so quanti watt da questa radio, non lo so, boh. Non lo so, forse una ventina di watt. E il microfono è sempre lo stesso, Carlo, quello di... Sì, boh. Non lo so, 10 anni fa. Non lo so quanto ne ho questo microfono, boh. Vabbè. E niente, tutto così, tutto originale. Bene, bene, microfono preamplificato perché sento in sottofondo la TV accesa, ma si sente benissimo, eh. Sì, è l'MP4 modificato, no, è il telefono. Sono su TikTok che sto guardando una live. Avanti già. Scappa. Ma no, io stavo cantando sino adesso, lui ha smesso in questo momento. Ho acceso e mi ha risposto subito Carlo. Beh, è un po' già messo a sgolato. Ma dimmi un po', ma Silvia sta cantando sempre, quella di Sassari. Cosa? Ho detto Silvia, quella di Sassari, sta cantando sempre. Boh, non l'ho più vista, non l'ho più sentita. Entrava quando entravi tu, e poi non è più entrata. No, non l'ho più sentita, Luca. E io giro, vado di base room, giro. Perché adesso la mia famiglia non sta aprendo perché il capitano sta lavorando, io non apro perché per essere solo non apro nemmeno, quindi me ne vado negli altri room a cantare. Ah, ho capito, ando con questo. Vabbè, caro, tu sei da un po' che non entravi in radio, eh. Cavolo, sapevo la famosa antenna, sì, o l'hai cambiata? No, Luca, ho un antennino di macchina buttato sul balcone, attaccato alla ringhiera. No, no, ho cambiato QTH e quindi questa è una piccola stazione di emergenza, giusto per riprendere. Appena posso, se riesco, la metterò sul tetto. Capito? Però adesso siamo qua, Sassari, mi faccio sentire, dai, un po' bassino, capito? Però a lui ti sento tutti molto molto bene. È quasi 9.30, Sì, quasi a fondo scala, ma c'è di quasi tutti i led, ne manca uno. Hai detto una sì adesso, Carlo? Via Pusè dall'inizio, sempre zona un pochettino alpina, e quindi niente, evidentemente sta facendo massa bene sulla ringhiera. E vi separa solo il Ponte Nuovo, praticamente a voi. 25, sì, Carlo, avanti che voleva entrare. C'era qualcuno che voleva entrare, boh, vabbè. Ho detto, vi separa solo il Ponte Nuovo a voi. Esatto, esatto, sì. No, la distanza via, diciamo, in linea d'aria non è tantissima, dai, non è tantissima. Giusto il salto del Ponte Nuovo e siamo lì. Ma in linea d'aria si vedono le antenne, capito? Si vedono. Sì, stasera più presto, intorno forse alle 17, c'era Marco e Gianni Luprofetta che è entrato, stava provando sempre. Abbiamo fatto una chiacchierata, così una mezz'oretta, e niente, poi ognuno di noi è andato perché aveva delle cosettine da fare, e infatti io stavo facendo, cambiandomi una copertina sul letto, mi ho visto che c'era, mi ho cambiato le lenzuola, eccetera, eccetera, da faccende domestiche. E vabbè, si va avanti, KK. No, io ieri mi sono andato al cimitero, sono andato a trovare anche a Natalino. Ah, bene, bene. Dove sei posto Natalino? Praticamente quelle che chiamano le tombe dei poveri, dai, quel cimitero dei poveri, quello sottoterra, là, però c'è la lapide. Ah, bene, magari tanto ci andrò in tutti i giorni, perché io a Sassari c'ho mia nonna materna, mia zia, mio zio, c'ho una sorella anche, anzi due sorelle, e poi gli altri ce li ho invece a Bonorva, quelli paterni. Non è difficile trovarlo, Se entri dalla parte di Alghero, c'è l'entrata, tu come entri, subito c'è una stradetta sulla sinistra, la vai in fondo a tutti, e te lo ritrovi spostato un po' sulla destra. Basta che tu guardi dove ci sono le lapidi, lo trovi. Sicuramente, se non piove, domattina ci faccio un salto al cimitero, ci voglio andare qua a Sassari. E poi magari il primo, se riesco, vado in sempre in mattinata, sempre se non piove, perché se piove è un casino. E io sono andato prima perché poi c'è troppa gente, già ieri era tutto pieno, ma poi il giorno dei morti sarà pieno zeppo, non ci sarà posto. Io ieri ho avuto fortuna, ho trovato una macchina che stavo uscendo, mi sono infilato, c'erano tutte le macchine che giravano a vuoto perché non c'erano parcheggi. Bene, bene, sì, ho visto il traffico lì che è aumentato. Adesso in questi giorni ci saranno anche i vigili lì per gli attraversamenti pedonali, perché lì, quella strada lì, la gente corre, capito? E sembra così, molti scendono col tram, poi attraversano e quindi anche un pericolo, capito? Però ci sarà un sacco di gente. Lì conviene proprio andare lontano, parcheggiarti e farti un pezzo a piedi, meglio, e ci arrivi tranquillo, tranquillo. Basta andare al Tanit, se non c'è parcheggio, lì lo trovi, e poi attraversi, però devi stare portato. Sì, ci sono già i vigili, c'erano già da ieri. Io oggi sono passato che erano le 2:30 rientrando dal lavoro, e diciamo era tutto liscio, liscio, non c'era granché di traffico a quell'ora, anche perché stava piovigginando, e quindi forse la gente si era un po' ritirata all'ora di pranzo. Immagino che poi più tardi o in mattinata, domani, dopodomani, sarà un delirio. Sempre così tutti gli anni, è un casino a trovare parcheggio. Avanti Luca! Gente mala. Aspetta, già sto andando, la maglia è a Dea. Ciao Cla. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao amigos, cosa siete facendo? Abbinando stiamo. Gli americani mi sono ammazzando. Ciao Lugarietti, ciao Carlo. Ammazzando mi stanno questi americani, cazzo. Ma è possibile che uno debba arrivare sull'11, 9 più 20, cazzo? Sì, li sento anche io, capito. Si sentono a volte anche sul 10 appena appena. Infatti pensavo ci fosse qualcuno in FM, invece erano loro, ma arriva una bomba, A me non mi sblatterano, zero, anche qua arrivano ben forti. Chissà quanti fatti c'hanno. Ma a sblatterare un K è una cosa allucinante, cioè, minchia, quanti fatti sottrattendi, cazzo? Minimo 1500-2000 watt. Io mi sono messo adesso a aggiornare il computer, c'era un aggiornamento e sono seduto qua in scrivania e sempre ci sono aggiornamenti di sicurezza e via, e magari mi stavo guardando, a dir la verità, uno di quei booster avviatori di motore per le auto, però anche auto di grossa cilindrata, perché ne avevo uno, ma le batterie dopo tanti anni, diciamo, si sono tutte rigonfiate, ho buttato via tutto perché sono batterie al litio, sono anche pericolose, e quindi me ne voglio prendere un altro perché mi è capitato da poco di averne necessità, non ce l'avevo e per fortuna ho trovato un amico che ce l'aveva in macchina e siamo riusciti a far partire la macchina del mio amico, che è un 1.9 turbo diesel, quindi voleva bello potente, però su Google stavo guardando un po' la classifica di quelli migliori, ma si dice in un modo, nell'altro, adesso vedo un po'. A te Gianni. E io l'ho avuto lo stesso, mi si è scaricata la batteria. Lo usavo ogni moto di ogni pappa, solo quando correva, e poi alla fine, anche se lo caricavo ogni tanto, la batteria è partita, e ci ho buttato tutto, non ne ho più preso, l'avevo preso da Brico, l'avevo pagato anche un po' di soldi, sulle 120 euro l'avevo pagato. Esatto, la cifra è quella, un centinaio costano ancora. Ce ne sono di tanti modelli, ma non so quale prendere. Il mio aveva anche la luce, il compressore, insomma, aveva diverse cose, ma poi non servono a nulla. Il compressore non vi dava di manca a copiare un palloncino. Caro, ma stai parlando di booster? No, ma non servono a niente qui. Mi si sente Roberto Quadrato, dico a lui, lui se ne intende. Lui li compra per l'officina, capito? Deve essere buono e vedurare. Io tutte le volte che vabbè ne ho bisogno me lo faccio vedere da lui, ma non c'è quello buono di marca, insomma, quelli che vendono al coso, al becco, ma non si viene a nulla, capito? Ascolta già, come sto andando col 440, che da tanto io non lo uso, di solito uso 140. Va bene come è regolato? Sì, sì, va benissimo, claro. Io il booster, lo sai cosa lo usavo? Il primo periodo che avevamo ripreso, l'avevo attaccato il portatile al booster, il portatile 747, e me li portava, Sì, io due per il porta, c'è un sacco di ampere, quindi, se metto in moto la macchina, figurati se no, se non te lo porta, alla grande te lo porta. Ma sei a casa, Carlo, il primo giorno sei entrato alle valvi 9, spaccato, adesso sei 8, ma hai cambiato posizione dell'antenna? No, no, l'antenna è quella, è la radio ho cambiato, Claudio, prima avevo il 9009, adesso c'ho quello piccolino del, della Presidente, meno fast. Inchiesta, ma da 8 a 9, quanto sono? 10 watt in meno? Esatto, esatto, quello là usciva con 12, 13, capito? Invece questo sta uscendo con 4, poi se attacco non lo so. Non lo so, molto, molto, molto più basso, sì, rispetto a, al primo giorno che ti ho sentito, comunque vabbè, ti sento. Sono ogni tanto c'ho questi splatter dagli americani e quindi è un casino. Vabbè, non fa niente. Lugariello, dov'è? Qua. Ti arrivo di modulazione. Modulazione buona, il segnale buono, sto usando il 44, il 440 che no, lo stavo usando pochissimo, stavo usando sempre il 140, bene va come regolazione? Sì, è una bomba, Cla. Una, la tua solita radio, il segnale 910. Sì, già va bene, sto andando con 20 watt, una ventina di watt modulati, dai. Non le tiro molto queste radio, sono vecchiotte, anche se sono tenute bene, però è sempre meglio darle del lei. Avanti già. E poi il 440 è particolare, 140 no, ma il 440 c'ha quel difetto dei puntini, se non lo usi ti batti subito questo difetto. È una bella radio, perché è una bella radio, perché va bene, ma c'ha quel difetto lì, purtroppo. Sono difetti che fanno dopo tanti anni, sono radio un po' diciamo obsolete. Allora, questo praticamente l'avevo revisionato Fabrizio già da quando era per Bonazzi, ma non mi ha mai dato problemi, sono 5 anni qua e ti dico che rimane anche un bel spento, molto spento, però no, non me l'ha mai fatto qualcosa, non me l'ha mai fatto. Chiaramente sono radio che devi avere una certa delicatezza ad usarli, io uso con potenza molto bassa, in banda laterale, vabbè l'uso a marettone, ma in banda laterale è diverso. M, queste radio non vanno usate molto alte, perché dalla casa queste radio per la M danno 30 watt, poi 100 watt in FM e 100 watt in SSB. Una volta che si tirano stai comprimendo tutto il sistema, e quindi è meglio sempre tenerle basse. Però questa, grazie a Dio, non mi ha mai creato problemi, assolutamente, capito? Va bene, avanti Carlo. Guarda questo passaggio, se è aumentato il segnale, Cla, come sto arrivando, magari è cambiata anche la radio, voce più nasina, immagino. Ma molto più forte, voce più nasina, me la fotti nuda. La modulazione è abbastanza chiara, un pochino nasina, sì, ma abbastanza chiara, il segnale è salito a 9 più 10. E così sì, sono attaccato, ne ho una trentina così. Fate il conto. Alla grande, va bene, vai già, trucca, a Bicecce, non Bicecce, a mettermi. Magari sono al telefono, si saranno spostati, immagino. Mi hanno bussato la porta, non voleva il telefono, non lo so, Lugariello sta andando a mangiare la cagnetta. La mia già mangia una volta solo, a pranzo è brutto, se no già è accorta a farà c'era un boom, è addormentato sotto la TV, col bled sopra. Oh signori, stavo cambiando radio, Cla. Questo cos'è? Questo è Galaxy. Allora. vero, dal BP sì, perché il coso al bagno non c'era diverso il BP. Va bene, va bene. Vedi, Carlo, invece di attaccare tu devi avere una radio che abbia una trentina di watt, 30-40 watt come quella c'ha Gianni, il magno, e non hai problemi. Sì, sì, esatto, ma sicuramente più là prenderò qualcosa di più serio, capito, così non sto attaccando niente, se lo regoli tu, se vuoi aumentare e così via, si fa molto più veloce e più pratico, hai ragione. Non ti dico che prendi un capo, intanto non sono solo buttati. Insomma, siamo rimasti in pochi, no? Io ce l'ho sempre queste radio, ne ho avuto tante, qualcuno l'avevo anche l'acqua, non ti conviene prendere un capo, non te ne fai nulla. Però una bella radio ce n'è, vedi, si magno queste radio che hanno 25-30 watt, sono eccezionali, bellissima ricezione, anche il Cobra. Quello che c'avevo io, quello è una bomba. Ma io ho un airbag che mi avevano regalato tanti anni fa, che non lo avevo mai, il 4082, e c'ha 15 watt. 15 watt c'ha, va benissimo, quando insomma se puoi usare 4 watt e ne hai già 15, va bene. Ma ho già, non ho più sentito a Bruno, mi sa che le mando, che lo so, poi si è piazzato con l'ignaretto, tu mi faceva sapere. Se le serve una mano io gliela do, non c'è problema. Non so se l'ha piazzato, e anch'io non l'ho più sentito. Chissà, magari si fa sentire con l'ignaretto. Perché non la fai l'impianto, lui stava alimentando il baracchino dell'accendisigari, questo non va bene, questo assorbe, anche se è piccolino, però cioè, i suoi watt ce li ha. Io ho provato a casa con il baracchino, perché non ho altre, col baracchino dandole 5 watt dava 70 watt, quindi sono sufficienti alla grande, capito? Gliel'ho dato, gli ho detto toppiatelo, vedi un po', però preparati la linea della cosa, dell'alimentazione, capito? Perché la vaccina di sigari non va bene, quindi forse sta preparando l'impianto, facendo, gli ho anche detto se aveva problemi di avvisarmi che sarei andato io a dare una mano, ma gli garaci da lui, capito? Se aveva cavo, se aveva tutto, ho detto che aveva tutto, vabbè. Si farà sentire, avanti Lucarie. E bisogna regolare anche le stazionali con gli lineari attaccati, bisogna fare la regolazione delle stazionali. E bisogna fare tutto, bisogna fare cose fatte bene. Bisogna fare cose fatte bene senza bressa, perché poi ci rimetti capo e cavoli. Quindi una volta che è pronta l'alimentazione, gli ho detto c'è Varrosa, c'è tutto. Quindi mi farà sapere, giusto per me, perché io non voglio, gliel'ho detto, provalo, fammi sapere, non me la fotte nulla, non è roba mia, però quando fai una cortesia a un amico voglio che sia fatta bene, infatti ho detto provalo tu, se sei soddisfatto, se sei soddisfatto se no me lo dai, e io lo restituisco immediatamente. Ma io ce l'avevo per un venduto, ho fatto male, perché quello era un bel diario. No, io ce l'ho Gianni, io ce l'ho 747, ma non lo do, non lo do, può sempre servire, capito, anche così per fare una prova a casa con un baracchino, ce l'ho, infatti me l'ha detto a me, io ce l'ho ma non te lo so chi ce l'ha, se vuoi te lo procuro, e infatti non sono a Caldera, me lo sono fatto dare e gliel'ho dato, non è un problema, però io ce l'ho, l'ho nuovo, e non lo do quello, lo tengo io. Può sempre servire per qualsiasi cosa, capito? Per qualsiasi cosa. Ti si bruciano i vinari di una radio, anche di queste, che danno sempre quei 5-6 watt, capito? Attacchi il vinaretto e tira capo. E c'hai sempre quei 60-70 watt. Ma se si bruciano i vinari non ti dà i watt alla palizia. No, sto parlando di queste radio qua, quando parte il finale, rimane il prefinale, e a due questo, capito? Il prefinale da sempre quei 5 watt, 6 watt, e quindi gli attacchi di dialetto, poi abbiamo un fischio, cioè voi, abbiamo fatto le prove con queste radio. Vabbè, se è così non lo so, però io pensavo diversamente, se si bruciava in finale pensavo che non desse proprio, se non gli dai impulso di entrata non può dare manco l'uscita, capito? Proprio lui ho pensato. Baracchini sì, Baracchini ormai sì, Maria Crefano, perché fanno sempre finale, prefinale, capito? Hanno un accoppiamento, ci sono radio in Nanibur 4 in finale, quelle da 200 watt. Ci sono radio che hanno 200 watt, tipo c'è la serie del Mark 5 che c'ha 200 watt, quelli c'hanno 4 finali. Perciò se ne si brucia uno, almeno l'altro funziona. Ma non è quello il problema, non lo so, perché è una cosa lo stesso anche quella che è manovrato, capito? Raccomarato. E quindi non lo so. La tengo io, c'ho anche altra roba, tu immaginati che io ho il portatile, è un baracchino, è il baracchino della macchina di Carlo Tittano. Sì, ma non ricordo, Carlo Tittano era quello che c'aveva il 128? No, l'850 c'aveva, era Cinca bianca, poi si aveva comprato la tempra grigia. E quello che aveva il 128 chi era? Quello che abitava via delle vite? 128. Ah sì, anche Carlo ha avuto 128, sì. 850 la Sica, 128, sì. E poi ce l'ho preso la tempra, seconda mano, quando era rientrato da Porto Marghera. E chi mi ha pigliato il tumore ai polmoni? Ma dimmi tu cazzo. Siccome c'ho un baracchino, il baracchino della moto, che usava Gian Paolo Silvestro, c'ho roba di Torellai, io c'ho roba di tutti i morti. C'ho un vecchio, sì. Sì, ma mi chiamano proprio loro, mi chiamano loro per prendermi i ricordi, c'è una persona che io frequentavo tantissimo, con Carlo, con Tore, Gianpaolo, insomma, tutto, e purtroppo, dico purtroppo, io non ne avevo nessuna intenzione, ma mi ha chiamato Angelo, anzi, tramite un'altra persona, che non dico qua in radio, mi ha chiamato Angelo, ma io c'ho ancora la radio natalino. Cappa, no, io, con i miei basta, non me l'hanno mai chiesto di niente, quindi no, non ho mai preso nulla. E vabbè, lì c'era tutto questo blocco, da togliere dai piedi. Siamo messi d'accordo con un'altra persona e abbiamo preso tutto, con i soldi mi no arrivarono, con i soldi io c'ho l'HF che lui aveva comprato da Marco Scorpio, che non voleva visto, comunque era usato poi il frontalino tutto spento, quindi l'ha preso il mio carissimo amico Fabrizio, me l'ha rifatto nuovo, ma nuovo vuol dire nuovo, la vetrina, tutti i coupé che riveniciato, revisionato, ho messo la paglia nuova in display, tutto, non ce l'ho qua davanti, è nuovo, e vabbè, i tranne più tre, strumenti della 27, HF, tutte ispezioni di carri, PL, c'ho la frusta nera, quella che gli avevo dato io tra l'altro, la frusta nera uguale a quella che aveva Pennuccetto e Moro nel coso, in macchina, insomma, tante cose, sono tutte qua. Quella è tutta roba di che va a taglio così? Sì, una parte io Baracchini non ne ho voluto, Baracchini si è preso un'altra persona, io ho preso